Semi di mele sono qualcosa di pazzesco. Io consiglio sempre, in questo caso nelle pomace, di mangiare questo tipo di semi. I semi di mele sono qualcosa di favoloso, nulla a che fare con quelli di albicocca che invece sono velenosi o di pesca altrettanto. Nei semi di mele ci sono una marea di sostanze antiossidanti, tant'è e di meraviglie, tant'è che se io pianto il seme poi nasce l'albero. Quindi un semino che può darmi una vita ha in sé tutte le condizioni per potermi dare una quantità enorme di salute. E questo è quanto. Dottor Vestita, abbiamo bisogno dei suoi consigli perché anticipava, come anticipava il professor Battaglia, l'autunno può essere una stagione difficile, una stagione in cui è necessario fare una sorta di reset, facciamo un po' di ricambio, eliminiamo le tossine per fare spazio ad una nuova energia. Naturalmente le erbe ci aiutano. Beh, senz'altro sì, pienamente d'accordo col collega, e grassi saturi sono sempre tanti e fanno veramente male. Detto questo, c'è un'abitudine contadina che in questo periodo della raccolta delle olive di raccogliere gli erbi. Gli erbi altri non sono che verdure selvatiche, che però attenzione sono il tarassaco, le cicerbite, crespigne, sono tutte piante altamente diuretiche. Cosa accade? Fare una minestra alla sera di queste qui vuol dire scambiare sodio potassio, riservare il potassio, buttare via il sodio e stare meglio. La fitoterapia però ci dice delle cose in più, ci sono delle piante specifiche altamente diuretiche che ci fanno stare bene. L'equiseto, che è una pianta diuretica, è anche rimineralizzante, la betulla stessa, la pilosella, il rusco. La fitoterapia non fa mai miracoli veloci, mai. Se io ho un problema di colesterolo ci metto 2 mesi ad aiutarmi, però nell'insufficienza venosa degli arti inferiori, in soldoni, le gambe pesanti, il rusco fa autenticamente dei miracoli. Tutto a costo zero, perché una tintura madre di rusco costa 4 euro e dura 1 mese, questo è quanto. Dottor Vestita, prima di salutarla, abbiamo preso appunti sulle erbe, naturalmente metteremo come sempre i consigli del dottor Ciro Vestita, lo anticipo già per gli ascoltatori che me lo stanno già chiedendo sulla pagina di Essere Benessere, ma prima di salutarla vorrei parlare con lei di un prodotto di stagione su cui vorrei soffermarmi rapidamente, sono i funghi che non possiamo fare a meno di citare sia per la Nota dolente. stagionalità, sia perché a proposito di tossine, noi oggi vogliamo parlare di come e perché è utile depurare il nostro organismo e parleremo naturalmente di quella coppia magnifica che lavora per noi, che sono i reni, ma i funghi possono, a proposito di tossine, essere altamente tossici. I funghi vanno conosciuti, i funghi sono delle mini antiuomo. A quei pochi che raccogliete, se li conoscete, portateli alle ASL, perché veramente ci si muore.